proseguiamo la giornata, parliamo con Gino che ci appunto presenterà un po' dove lavora, cosa fa sul lavoro e come mai appunto si trova qua in questa giornata Critical Wine. Dunque, noi abbiamo un'azienda agricola piccola e abbiamo dovuto trovare delle soluzioni per poter sopravvivere e ci siamo immessi nel canale delle fattorie didattiche, no? Abbiamo quindi messo a punto dei percorsi dove i ragazzi vengono a contatto con gli animali, con le faccende che si fanno in agricoltura normalmente durante tutto l'arco dell'anno. E questo ci ha incamminato sulla strada della riscoperta anche da parte nostra di tutta una serie di tradizioni agricole, no? E abbiamo piano piano riportato alla luce alcune caratteristiche che si erano proprio dimenticate. Non so, abbiamo ad esempio ripreso a fare la marmellata con il sambuco, che è una pianta autoctona, una pianta che cresce spontanea, oppure abbiamo ripreso a fare il mosto cotto, che era l'unico dolcificante dell'antichità, no? Perché non c'era il miele, non c'era lo zucchero, oppure quello di aver recuperato il modo di fare la farina di polenta nella tradizione Mournay, questo è l'agriturismo, è il nome di mugnaio, no? E è il mestiere che faceva mio padre, dal quale ho preso alcune, diciamo così, consigli che piano piano ho fatto riaffiorare e sono riuscito a preparare ancora una farina per fare la polenta delle stesse qualità di quel tempo, cioè ho preso dei granoturchi che erano in uso allora, cioè quei granoturchi piccoli vitrei, il marano ad esempio, eccetera, che ancora ci sono in giro, li ho coltivati secondo gli stessi criteri di un tempo, senza esagerare nel concime, anche perché sono piante che non sopportano grandi quantità di concime, perché sono ancora di una genetica vecchia, insomma, no? Anche molto deboli, risentono moltissimo dalle malattie della piralide, eccetera, quindi ho dovuto trattarli con un'altra ottica. Ne ho poi raccolto i chicchi che invece di far seccare sull'essiccatoio, dove la temperatura per l'asciugatura, che è circa 250-300 gradi, porta via tutti gli aromi, riducendo poi l'amido a un qualcosa di difficilmente digeribile, ad avere una polenta ancora con lo stesso aroma del campo di mais. Quando si fa cuocere, dopo un po' di tempo, ecco, libera questi aromi, no? E sembra di essere in un campo di mais, perché l'aroma è proprio la polenta, la farina del grano turco. E anche molto più digeribile, perché non viene esageratamente, cioè non è stata scottata da questa da questo forno che per asciugarla. Ascolta, volevo chiederti una cosa, dove sorgono i centri commerciali, il senso di questa cosa, quanto poi noi possiamo come consumatori apprezzare le tue farine, dove, come e a che prezzo? Ma nei centri commerciali non so se ci sono, anche perché sai benissimo che la politica del centro commerciale è che il prodotto deve sparire nel giro di poco tempo, no? Se lo scaffale trattiene il prodotto più di un certo tempo, il prodotto viene scartato, no? Questo qui invece sono prodotti un po', diciamo, ricercati. Ecco, ci deve essere una maturazione. Il mio agriturismo culturale didattico, non faccio ristorazione. La cultura è la prima cosa da mettere in campo per poter apprezzare poi quello che si guarda, quello che si mangia, quello che si tocca, no? Questo è il concetto. E quindi queste farine sono la risposta di chi la ricerca. Chi la ricerca la trova, l'apprezza e la gusta, no? Una che non la ricerca, guarda il prezzo, no? E poi non è buona, la butta, non ci sono problemi. Come vanno a prendere un pollo, poi all'interno puzza, la coscia non è ben cotta, il petto è troppo asciutto, l'ale secca, si butta tutto, no? Invece i polli che alleviamo noi sono dei polli che mangi addirittura anche l'interno, cioè il fegato, il ventriglio, addirittura si può fare la trippa di pollo, no? Queste sono tutte piccole cose che erano la quotidianità di un tempo, non si buttava niente, perché con le zampe di gallina ben pulite ferite il collo ed era un brodo per fare una minestra con i fiocchi, un pugno di riso, non ce n'era di più, però era già quello, un pasto. Il brodo, tra l'altro, quando si fa cuocere la gallina, buona, il brodo ti dà un profumo che lo senti sulle scale, come si dice, no? Quindi nella grande distribuzione non si avranno sicuramente mai questi prodotti, perché sono prodotti un po' di nicchia. Anche per noi è difficile tenerli, perché chiaramente hanno una scadenza che non possiamo trattenerli per lungo tempo.